24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7.31, buongiorno cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 9 con 24 mattino. Oggi nel nostro sondaggio parliamo di Berlusconi che è andato in Libia. Da Gheddafi ha risolto dei problemi, anche il dissequestro di alcuni pescherecci di Mazara del Vallo che i libici ci avevano sottratto, ci avevano sequestrato. E quello che vi chiediamo, poi parliamo un po' di politica internazionale, se sia giusto secondo voi trattare con Gheddafi, con la Libia di Gheddafi. Dovete votare su Radio24.it nell'homepage bianco o nero, alle 8.30 poi ne parleremo approfonditamente. E ora la lettura dei giornali. Infinity, autosportive che ispirano. Infinity, inspired performance. Vi presenta In primo piano. In questo martedì 15 giugno le aperture sono pressoché unanimi sulla vicenda di Pomigliano e il futuro dello stabilimento Fiat. Su Pomigliano il no della FIOM, il Sole 24 Ore, questa è l'apertura, ma ripeto, la carrellata è simile. Per il Corriere FIOM dice no, Fiat va avanti. Per Repubblica Fiat Pomigliano è rottura, la FIOM boccia l'accordo. Per La Stampa Pomigliano la FIOM dice no, per Il Messaggero Pomigliano è intesa a rischio. L'Unità, lo strappo, c'è la Costituzione sullo sfondo, alzo zero contro la Costituzione, Pomigliano diventa l'ultimo caso di aggressione alla carta per l'Unità. Mentre il Manifesto mette c'è una maglietta, Pomigliano non si tocca, disprezzo e profitto. Vedremo poi le altre aperture, ma visto che questo è il tema del giorno, Giorgio Pogliotti ne parla a pagina 3 del Sole. La FIOM boccia il piano Fiat su Pomigliano d'Arco, dicendo no anche al referendum proposto dagli altri 4 sindacati avallato dallo stesso Epifani. Il no FIOM all'intesa su Pomigliano. Che cosa succederà ora? Intanto, oggi verrà inserita, ci fa sapere Pogliotti, una novità nel documento aziendale, la creazione di una commissione paritetica di raffreddamento sulle sanzioni previste per i lavoratori sindacati in caso di violazione del contenuto dell'intesa. Per capire con un esempio concreto, secondo il documento potrà scattare il blocco dei contributi e dei permessi per il sindacato o provvedimenti disciplinari fino al licenziamento se viene proclamato o si partecipa ad uno sciopero che cade in un giorno di straordinario obbligato. Qual è il tema centrale, lo voglio ricordare ancora una volta, di Pomigliano? È che prima di sbloccare un investimento da 700 milioni per portare dalla Polonia allo stabilimento di Pomigliano la produzione della nuova Panda da parte di Fiat, Fiat ha chiesto che non vengano messe a rischio le novità concordate col sindacato e che ci siano delle blindature su alcuni aspetti come più turni, oppure anche un monitoraggio degli assenteismi che hanno dei livelli sicuramente più alti a Pomigliano. Su questo tipo di accordo la FIOM non ci sta e ha parlato di ricatto da parte della Fiat. Ovviamente sono tanti i commenti, tante le interviste. Il commento di Alberto Rioli in prima pagina del Sole: non è un ricatto, è uno scambio tra due esigenze di sopravvivenza, quella della Fiat che cerca di produrre e vendere auto sul più globalizzato dei mercati e deve fare i conti con ritmi, flessibilità, saturazione di impianti in modo da non venire sorpassata dai competitor, e quello dei dipendenti di Pomigliano d'Arco, diretti e indiretti, si tratta di un esercito di 12.000 persone che cercano di mantenere il posto di lavoro in una zona dove la disoccupazione, soprattutto tra i giovani, è altissima. Dunque uno scambio accompagnato da sfide, secondo Alberto Rioli. Ci sono anche già molte interviste, per esempio il segretario della CGIL Guglielmo Epifani viene intervistato da Roberto Magna su Repubblica a pagina 3. La Fiat ci ripensi, la fabbrica non è una caserma, dice Epifani. Marchionne ci ripensi, non contrapponga lavoro a diritti, Pomigliano non può diventare una fabbrica caserma e il piano B sarebbe una sua sconfitta. E dunque lei condivide la posizione della FIOM? Io dico ciò che chiede la CGIL, cioè che si realizzi rapidamente l'investimento previsto per lo stabilimento di Pomigliano. Stiamo parlando di 15.000 posti di lavoro, compreso l'indotto. Un piano di queste dimensioni impone una sfida che deve essere raccolta, quella della saturazione degli impianti e della turnazione. Su questo non abbiamo timidezze. Capisco gli operai, non è facile lavorare il sabato e la domenica, di notte, non è la stessa cosa lavorare alla catena di montaggio o lo stare seduti a una scrivania, ma i punti che, secondo Epifani, non vanno bene, e questi sono questi. C'è un capitolo del documento Fiat che apre problemi molto gravi, riguarda la malattia e lo sciopero. Abbiamo consultato insigni giuristi e ci dicono che senza chiarimenti e correzioni quelle clausole appaiono illegittime o addirittura incostituzionali. Si può sottoscrivere un accordo con questi profili di illegittimità? Questo è il punto. Al che però viene chiesto Epifani, ma lei pensa che la Fiat, la CISL e la UIL possano firmare un accordo incostituzionale addirittura? Per quanto mi risulta, risponde Epifani, anche i metalmeccanici di CISL e UIL avevano sollevato i nostri stessi argomenti. Intanto anche la politica si muove. Enrico Letta del Partito Democratico sul Corriere della Sera, pagina 3, dice: rispetto l'autonomia del sindacato, ma attenzione, la FIOM non deve assumersi questa grave responsabilità di far saltare l'accordo. Sarebbe una pessima notizia per l'Italia, per il Sud, perché Pomigliano in Campania non è sostituibile e 5.000 lavoratori non sono sostituibili. Che poi vediamo 5.000, in realtà con l'indotto, insomma, si arriva, secondo Epifani, a 15.000 i lavoratori coinvolti in questa vicenda. Mentre il protagonista di questa vicenda è sicuramente uno dei protagonisti, è Maurizio Landini, vale a dire il segretario generale della FIOM, che parla all'Unità a pagina 5, clausole assurde, a Fiat presenteremo un'alternativa. Ecco qua, abbiamo una proposta alternativa. Chiederemo a Lingotto di applicare il contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici che permette all'azienda di produrre le 280.000 vetture all'anno, che sono l'obiettivo del suo piano industriale. Se la Fiat vuole efficienza produttiva, allora sgombri il campo dagli inutili elementi ideologici. Altrimenti, chiede Luigina Venturelli, altrimenti, volente o nolente, farà solo un piacere a Sacconi e Tremonti, che già stanno dichiarando a mezzo mondo di voler rivedere lo statuto dei lavoratori. Ma insomma, vedete, le posizioni sono molto diversificate. Per esempio Peppe Enrico, che è della CGIL Napoli, non è sulla linea di Epifani, perché dice al Sole 24 Ore la priorità deve restare la salvaguardia dei posti. E tra l'altro Peppe Enrico è uno che Pomigliano la conosce bene, perché è un dipendente Fiat in distacco sindacale assunto nel 1970, il primo anno ad Arese e poi subito a Pomigliano, e dice: è vero, proposta aziendale che contiene possibili violazioni di legge e contratti, è vero, tra i lavoratori c'è preoccupazione, ma il timore maggiore è la perdita del lavoro. E ricordo che parliamo di operai in cassa integrazione che guadagnano 700-800 euro al mese. Quando la CIG, cioè la cassa integrazione, si esaurisce, saranno in mezzo alla strada. Insomma, questo è il tema del dibattito molto molto serrato e anche molto molto importante per il futuro dello stabilimento di Pomigliano per quel che riguarda Fiat. Intanto il Libero ci ricorda, pagina 3, uno dei problemi sul tavolo della trattativa, vale a dire l'assenteismo. L'assenteismo nello stabilimento di Pomigliano è il 40% in più di quello di Melfi. E questo l'ha riconosciuto anche lo stesso Epifani, cioè che c'è un problema di questo tipo. L'assenteismo, il male endemico di questo stabilimento, scrive Nino Sunseri. Cifre taglienti. Nell'aprile 2008, in occasione delle elezioni, non si sono presentati in fabbrica 1.518 dipendenti su 5.000. Tutti ai seggi come presidenti, scrutatori o rappresentanti di lista. Poco prima, l'11 aprile, in occasione di uno sciopero per il contratto, avevano marcato visita in 1.250, ottenendo così un doppio vantaggio: non presentarsi in fabbrica, così da tenere la bandiera della protesta, ma non perdere la giornata in busta paga. Sei mesi prima, 16 novembre 2007, certificati medici in occasione sempre di uno sciopero erano stati 471. E risultato di tutto questo, la Fiat calcola che a Pomigliano un'ora di lavoro abbia un costo di 75 euro, quando invece in Polonia, Turchia e Brasile non supera le 30 euro come costo del lavoro per ora. Come finirà la vicenda di Pomigliano, certo, la seguiremo in settimana. La politica invece si interroga sempre sul tema delle intercettazioni. Le intercettazioni da qui a quest'estate è inutile, cari ascoltatori, con tutto annesso di polemiche ce le porteremo avanti. Il disegno di legge, il tema nuovo che trovate sui giornali è questo. Visto che il disegno di legge deve fare un ultimo passaggio alla Camera, quando ci sarà questo passaggio? Berlusconi lo vuole prima dell'estate. Fini dice: non c'è nessuna fretta. Ci sono stati 2 anni per discutere questo disegno di legge, perché dobbiamo affrettare il tutto adesso? E allora ecco la nuova tensione. Berlusconi lancia l'ultimatum. Gianfranco, dica sì o è fuori dal partito. Questo è il retroscena di Repubblica. Ovviamente sono tutti retroscena, appunto, quindi i virgolettati vanno presi con tutti con le molle. Si parla di un Berlusconi che dice: mettiamoli fuori dal partito e andiamo a votare. Ma Fini, che invece non si smuove sulle intercettazioni, è finito il tempo dei compromessi. Ma anche Libero dice che il clima è questo. Salvatore Dama: Silvio esasperato, chi non ci sta è fuori. Ultimatum agli oppositori interni: la legge antispioni non si cambia, va approvata subito, altrimenti lui e i suoi sono fuori dal partito. Berlusconi si rivolgerebbe così a Fini. Ripeto, il tema politico è questo, come l'altro tema politico e non solo politico e appalti che trova spazio ancora oggi sui giornali è quello del famoso appalti del G8. Troverete sicuramente la foto pubblicata da diversi giornali di Fabio De Santis, l'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana, uno arrestato e implicato nelle vicende quelle degli appalti al G8 e della cosiddetta cricca, che ieri è stato portato in tribunale ed è comparso con un paio di manette. Scalpore, umiliazione pubblica, le polemiche, sapete, dopo che ci fu il famoso caso Carra, vale a dire l'ex portavoce di Forlani, che in piena Tangentopoli fu portato ammanettato e fotografato in mezzo a 2 carabinieri, il garante della privacy, insomma, si è espresso, ci sono state delle leggi che vietano la possibilità di fotografare ed esporre una persona in manette, visto che non è ancora stato giudicato colpevole di nulla. Ebbene, ci sono le grandi polemiche sull'umiliazione pubblica, sulla gogna pubblica. Il TG2 l'ha mostrate volutamente, dicendo: vogliamo denunciare questa gogna pubblica. Ci sono le polemiche, per esempio, di Filippo Facci su Libero, che tra l'altro però ricorda: quando si tratta di potenti ci sono tutte queste polemiche, quando si tratta di persone come, ricordate per esempio, i 2 rumeni accusati ingiustamente dello stupro di Guidonia, ammanettati, fatti vedere nei volti, allora in quei casi non è che si alzarono in tanti a loro difesa, poi li lasciati liberi con tante scuse. In quel caso, insomma, non solo mostrati ammanettati, ma anche mostrati proprio alla gogna, dicendo: questi sono i mostri che hanno stuprato questa ragazza, e poi non erano loro. Però certo c'è questa polemica, come c'è nuovamente la polemica per, io devo dire, l'allucinante, in alcuni casi, in alcuni tratti, intervista che l'ex ministro Lunardi ha rilasciato ieri a Repubblica e che ieri abbiamo letto in rassegna stampa, e che oggi viene ripresa un po' da vari giornali, da Repubblica stessa. Bufera su Lunardi, ora si dimetta. Un'intervista agghiacciante anche per alcuni del Popolo della Libertà, vale a dire della coalizione di cui fa parte Lunardi, in cui in questa intervista Lunardi parlava di favori in maniera abbastanza esplicita. In primo piano. Bufera su Lunardi, ora si dimetta, così dice Repubblica dopo l'intervista di ieri, che anche altri giornali come Il Riformista e Il Foglio commentano. Per esempio sul Foglio Stefano Di Michele dice: leggere Lunardi e capire che intercettarli non serve, basta intervistarli. Lunardi deve essere un personaggio strepitoso che racconta cose strepitose. Ieri ha raccontato, per esempio, difendendosi dalle accuse di aver avuto la casa ristrutturata da Diego Anemone, uno di quelli appunto implicati negli appalti del G8. Si è difeso Lunardi dicendo: ecco qua, mi difendo e vi spiego tutto. Solo che la sua spiegazione è stata a qualcosa dell'incredibile. Per esempio, la ristrutturazione di quella che lui definisce una casa padronale. Anemone doveva sdebitarsi di un favore. Come di un favore? In che senso? Lo avevo aiutato ad acquistare i terreni della Banca di Roma facendo una telefonata a un funzionario della banca in mezzo a 100 cose che un neo ministro doveva fare, cioè io. Da qui il debito, scrive il Foglio, da qui lo sdebito. Anemone fa dei lavori. E poi sulla casa, appena nominato ministro, il padrone di casa mi raddoppia l'affitto, 6.000 euro al mese. Fortunatamente c'è un amico magistrato del TAR che mi aiuta. Al che l'intervistatore di Repubblica diceva: ma non ce l'hanno già un lavoro? Cosa ci fa un magistrato del TAR a trattare case del Vaticano? E Lunardi: sì, ma lo faceva a tempo perso. Sa, a Roma tutti fanno 3 o 4 lavori. Insomma, una vicenda che il Foglio dice: altro che intercettateli, intervistateli, basta intervistarli, che certi personaggi insomma, cadono un po' in alcune dichiarazioni che poi fanno discutere. Tanto che oggi Repubblica ci ritorna con un commento di Michele Serra: appalti, appartamenti, raccomandazioni, ecco l'Italia dei favori. Ma anche in prima pagina del Riformista, Ritanna Armeni: Lunardi e l'etica, se il favore diventa legge. Io ho solo ricevuto dei favori, che male c'è? Così ha affermato in un'intervista a Repubblica Pietro Lunardi, ex ministro. I favori sono molti, l'ex ministro li elenca con la precisione di chi crede di non aver nulla da nascondere. Lui ha aiutato, ammette, e raccomandato. Lo ha fatto tranquillamente, serenamente, tra le mille altre cose cui il suo ruolo di responsabile di 4 dicasteri lo impegnava. In cambio dei favori elargiti ne ha ricevuti la ristrutturazione di una dependance di 220 metri quadri, l'acquisto a prezzi stracciati di un palazzetto a Roma in via dei Prefetti, l'affitto gratis per 14 mesi. Ora non ha alcun ripensamento, alcun rimorso, non ha sensi di colpa e non crede di poter essere penalmente perseguito. L'ex ministro appare perfino sconcertato di fronte alle domande del giornalista. I favori, dice, li ho fatti come persona e non come ministro. Io sono una persona corretta. E si chiede, Ritanna Armeni, c'è da chiedersi come sia potuto avvenire in pochi anni in Italia un tale sovvertimento di valori e comportamenti, come sia potuto avvenire che la barra dell'etica pubblica si sia abbassata al punto che un uomo pubblico non riesca a percepire che suo compito e suo dovere è quello di mantenere rigorosamente distinti gli interessi pubblici da quelli privati e che ogni senso di colpa sia scomparso lasciando spazio a un'affermazione di innocenza tanto sincera quanto priva di qualunque consapevolezza. L'etica della res pubblica e il disarmante Lunardi, questo è il titolo dell'editoriale di Ritanna Armeni. Veniamo alla vicenda della casta che Libero e il Giornale perseguono da giorni. Oggi il Giornale se la prende con gli onorevoli che ci costano altri 73 milioni, a pagina 3. Predicano tutti che bisogna tagliare i costi della politica, eppure i partiti spendono sempre di più per mantenersi. 73 milioni, questa è la cifra che vanno ai gruppi parlamentari. E ricorda il Giornale che per i gruppi parlamentari c'è tutto, ogni onorevole c'ha un ufficio stampa, ma c'ha anche l'ufficio legislativo che prepara schede istruttorie di settimana in settimana, c'ha anche i cosiddetti curatori dell'agenda, coloro che hanno il compito di allertare per magari chiamare l'onorevole e dire: guarda che c'è una votazione in aula, devi svegliarti e devi arrivare in aula. Insomma, soffia il vento anticasta. Oggi il Giornale continua anche quella che è la pubblicazione delle spese, degli stipendi che paghiamo noi. Oggi arriviamo alla Regione Campania e al Ministero dei Trasporti. Alla Regione Campania, ragazzi, ci sono delle consulenze che fanno veramente rabbrividire. Io sono felice per Ornella Carbone, quasi 300.000 euro. Valeria Del Genio, 386.000 euro di consulenza della Regione Campania. Angelo Andrea Falcone, 220.000 euro. Sara Gaudino, 323.000 euro. Lorena Milone, 289.000 euro. Giuseppe Leonello, 323.000 euro. Mentre il dirigente più pagato è Carlo Neri, 196.000 euro della Regione Campania. Questi li trovate su Libero, che continua a pubblicare l'elenco degli stipendiati mentre io voglio leggere in conclusione una storia che è apparsa sul Fatto, ma non solo, sul Fatto la scrive Ferruccio Sansa: quando una casa significa tutto, una donna si uccide per lo sfratto. È successo a Genova. Lucia aveva soltanto la casa, non un amore, non un lavoro per campare, nemmeno amici che la strappassero alla depressione. Aveva trascorso tutti i suoi 42 anni in quella casa. Quella casa da cui dalla finestra della camera al settimo piano passava le giornate a guardare il cielo di Genova. Così, quando la polizia ha suonato alla porta per eseguire lo sfratto, Lucia ha capito che anche quell'ultimo bene stava per esserle tolto. E in silenzio, come aveva vissuto, si è buttata, anzi, si è lasciata cadere dalla finestra. Allora, quando il corpo è caduto sull'autostrada, la città si è accorta finalmente di lei e si è fermata per qualche minuto. E la vicenda di questo sfratto che è stato eseguito ieri a Genova è finito nel dramma. Chi è? Chiede il padre di Lucia. Devo eseguire un decreto di sfratto, dice una voce dall'altra parte della porta. Sono gli ufficiali giudiziari che devono svolgere un compito che detestano: portare via la gente di casa, vincere la loro resistenza, la disperazione. Andate via, urla un uomo oltre la pesante porta. È il padre di Lucia. Abbiamo un decreto del tribunale, ripete l'ufficiale giudiziario. L'uscio non si apre, sono urla, singhiozzi, colpi. La polizia è pronta a sfondare la porta. Alla fine il vecchio capisce che non c'è niente da fare e si arrende. Ma solo in quel momento il padre di Lucia se ne accorge e capisce: dov'è mia figlia? Non ha visto che Lucia se n'è andata, si è chiusa in bagno, ha aperto la finestra e si è lasciata cadere per 30 metri. È una storia che fa riflettere. Quando una casa significa tutto, una donna si uccide per lo sfratto, è Ferruccio Sansa, oggi sul Fatto Quotidiano. Ci fermiamo qui, votate il sondaggio "trattare con la Libia" su radio24.it. Eccoci, 8:19 minuti, ben ritrovati a 24 mattino e ben ritrovata la nostra Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Buona giornata. Piove a Milano. Guarda, non so, caso, ma pensa un po' che beh, novità, adesso, guarda. Non buttiamoci giù così. Beh, c'era vabbè, il sole. Vabbè, piovuto fino all'altro giorno, vedi un po' tu. Diciamo che per eliminare la cappa che c'è stata fra sabato e domenica va bene anche così, però, santo cielo. Vabbè. Piove, piove. Vediamo vabbè. Un po' di andare in ferie per vedere un po' di sole, speriamo che ne rimanga un po'. Intanto parliamo di debiti delle famiglie, va tanto per allegrarci ulteriormente. Allora, sì, siamo sempre in clima di analisi e riflessioni sulle difficoltà del mondo economico e finanziario di questi ultimi anni. Qui a Soldi e Dintorni riproviamo a tastare il polso del nostro paese. La cartina tornasole più importante per noi è quella rappresentata dalla spesa delle famiglie, da quanto riescono a risparmiare, da quanto sono schiacciate, se lo sono, se va bene questa definizione, dal peso dei debiti e delle rate da saldare e così via. Ieri il Sole 24 Ore ha pubblicato alcuni dati che sono stati diramati dal CRIF. Il CRIF è la più importante società italiana che gestisce le informazioni creditizie. Noi stamattina, per capire in che posizione è messa anche l'Italia in questo confronto europeo, che per la verità da questo punto di vista ci ha dato sempre per vincenti, un paese che sicuramente vive una situazione molto migliore delle economie, per esempio anglosassoni, appunto. Allora, stamattina abbiamo buttato letteralmente giù dal letto la dottoressa Daniela Bastianelli, Senior Analyst di CRIF Decision Solution. Dottoressa Bastianelli, buongiorno, benvenuta a Soldi e Dintorni. Buongiorno a tutti. Allora, dicevamo di questo confronto europeo. Ovviamente, se andiamo a vedere le economie in forte difficoltà, è chiaro, come dire, che l'Italia venga fuori vincente, perché per esempio abbiamo una situazione in Spagna che vede il credito letteralmente paralizzato. Là non si vendono case, qua almeno in Italia quelle ancora continuano ad essere compravendute in qualche maniera, anche se a tassi inferiori rispetto al passato. Detto questo, nei primi mesi dell'anno i prestiti per le famiglie e i mutui per le famiglie hanno ripreso un tasso di crescita, poi magari vedremo anche le percentuali. Che segnale è, dottoressa Bastianelli? Perché dobbiamo ricordare, magari lei ce lo dirà, che partivamo da un 2009 davvero brutto, negativo. Ma sì, dunque il 2010 sta dando qualche segnale di ripresa, questo non soltanto nel credito al consumo, ma anche nella situazione più complessiva dell'economia. Certamente è un'eredità molto pesante lasciata dal 2009 in termini di tante problematiche che non sono state ancora superate. Lo sappiamo, insomma, nel 2009 tutti gli attori dell'economia hanno subito questa crisi. il sistema bancario e finanziario, che ha dovuto fare i conti con una crisi di liquidità che, diciamo, è migliorata soltanto nella seconda parte del 2009 e che ha condizionato le politiche di erogazione. Le imprese coinvolte in una profonda crisi di domanda interna e internazionale e le famiglie che hanno, diciamo, dovuto fare i conti con un'elevatissima disoccupazione, con tanta cassa integrazione e con una riduzione anche del reddito reale disponibile, e il tutto ha portato ovviamente anche a un aumento della rischiosità. Quindi vediamo che la situazione del 2009 è stata veramente pesante, in cui quindi anche il credito al consumo in tutte le sue forme, quindi prestiti personali, prestiti finalizzati e mutui, si sono letteralmente contratti in termini di flussi erogati, quindi di nuovi finanziamenti, no? D'altra parte, diciamo che c'è stata molta cautela sia dal lato quindi di chi eroga credito, quindi delle banche, delle finanziarie, sia dal lato delle famiglie, in un clima di profonda incertezza sulle prospettive. Quindi il clima di fiducia che si era deteriorato ha portato tutti ad aspettare, no, tempi migliori anche per un nuovo indebitamento. Certo, e questi tempi migliori, dottoressa Bastianelli, sono arrivati perché, per esempio, adesso non diamo i dati molto dettagliati perché abbiamo ancora dei dati di stock, però in Italia nei primi mesi dell'anno abbiamo avuto un più 8% di erogazione di nuovi mutui, mentre i prestiti e quindi il credito al consumo ha avuto una crescita del 4,3%. Per molti magari il dato potrebbe essere poco significativo, ma che dato positivo è se le famiglie tornano ad indebitarsi? Invece è da segnalare come buon segnale questo o no? Ma certamente, nel senso che comunque si sono un po' allentate quelle che sono le tensioni che abbiamo visto per tutto il 2009 nella concessione del credito, quindi diciamo si è allentato l'inasprimento delle condizioni di finanziamento delle famiglie e delle imprese. Ricordiamo inoltre che le dimensioni del mercato italiano del credito al consumo risultano ancora diciamo più contenute anche nel confronto europeo. Le famiglie italiane sono quelle meno indebitate, l'abbiamo sempre detto, quindi diciamo che noi non abbiamo una crescita incentrata sui consumi come invece è avvenuto negli Stati Uniti, dove abbiamo un rapporto tra indebitamento e reddito disponibile altissimo, addirittura superiore al 100%, no? E che è stato forse uno dei problemi strutturali dell'economia statunitense in questa grossa crisi che ha colpito anche loro. Così pure la Spagna ha un livello di indebitamento più alto, ma anche i partner europei più vicini a noi, quindi diciamo che noi abbiamo margine per crescere. D'altra parte diciamo il credito al consumo ha avuto, diciamo, dei momenti di splendore negli anni passati, dove cresceva a doppia cifra, e ovviamente, diciamo, la crisi da un lato sicuramente ha inciso molto nella sua contrazione, ma anche una diciamo riduzione come dire fisiologica di un mercato che non poteva crescere sempre così tanto. Infatti, è stato poi sperimentato, diciamo, tutto insieme nel 2008-2009. Qualche famiglia ha anche pagato un indebitamento avvenuto in maniera un po' troppo leggera, cioè che si è indebitato appunto per la casa facendo dei prestiti a lunghissimo termine di importo molto alto, e ci sono stati dei momenti in cui le rate non si sono più potute sopportare. Dottoressa Bastianelli, io ho veramente 20 secondi di tempo prima di salutarla, ma così, la percezione che avete sulla qualità del debito delle famiglie in questo momento? Le famiglie hanno un debito sostenibile o rivivremo momenti di difficoltà come quelli che per esempio abbiamo visto alla fine del 2008? Sicuramente la crisi ha portato a un innalzamento del rischio di credito, ancora sotto controllo, certamente a livelli, ripeto, ancora controllabili e sicuramente non confrontabili con quelli che abbiamo visto soprattutto negli Stati Uniti, che stiamo vedendo anche in Spagna. Certamente questa crisi ci ha, diciamo, sollecitato un ragionamento sulla sostenibilità del debito, quindi su quanto effettivamente le famiglie possono sostenere. Quindi c'è una maggiore consapevolezza sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta su quello che effettivamente le famiglie possono sopportare in termini di rata da pagare. Quindi probabilmente avremo, diciamo, dei meccanismi più cauti, più ragionati di erogazioni. Anche se un po' meno rigidi dell'anno scorso, per esempio. Almeno questo aiuterebbe moltissimo le imprese che devono investire, devono dare occupazione. Grazie dottoressa Bastianelli, buona giornata. Grazie a voi. A presto. A presto, Alessandro. Oggi io riaffronto le novità sulle pensioni, la liquidazione liquidazione a rate per i dipendenti del pubblico impiego. Alle 12 a Salvadanaio. Ciao. Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora parliamo di trattare con Gheddafi. Questo è il tema. Parliamo di politica internazionale. Il nostro presidente del Consiglio è stato da Gheddafi domenica scorsa. È stato anche determinante per la liberazione, il dissequestro di tre pescherecci di Mazara del Vallo. Questo è il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. È giusto trattare con Gheddafi, che poi è un po' il problema che si può porre quando in Italia si deve trattare con stati, con capi di Stato, dove magari il concetto di democrazia non è esattamente il concetto di democrazia che abbiamo noi. Intanto voglio salutare il senatore Marco Perduca. Buongiorno senatore. Buongiorno. Ci sente, credo la troviamo negli Stati Uniti, la ringrazio per partecipare con noi in diretta. Senatore, lei è uno dei più critici. Perché non dovremmo trattare con Gheddafi, un partner importante, un partner energetico importante, un uomo che con un accordo, anche se tribolato, ha fermato le rotte migratorie verso l'Italia? Si tratta di non dover trattare con Gheddafi come non si deve non trattare con Putin o con altri autocrati o dittatori. Si tratta però tutte le volte che ci si siede a un tavolo di sedercisi da pari a pari, tenendo presente che l'Italia ha ratificato dalla Carta delle Nazioni Unite in poi tutta una serie di strumenti internazionali di rispetto, tutela e promozione dei diritti umani che obbligano il nostro paese a comportarsi tanto a casa quanto all'estero in un determinato modo. Ecco, noi tutte le volte che abbiamo a che fare con questi paesi, e in modo particolare con la Libia, ci dimentichiamo di questi obblighi che abbiamo riconosciuto ormai 60 anni fa e ci inchiniamo di fronte al re di turno in virtù della sua, diciamo così, detenzione di sostanze varie o comunque di fonti di energia che gli sono state date dal caso e non necessariamente guadagnate con... Cioè noi dovremmo sederci o andare nella tenda di Gheddafi e dire va bene Gheddafi, trattiamo su questo, però ricordati che sulla democrazia, sui diritti umani, perché hai chiuso l'ufficio dei rifugiati dell'ONU a Tripoli. Ogni volta dovremmo fare insomma questo tipo di discorso, lei dice. No, dovremmo farcelo in primis a noi, e cioè capire innanzitutto perché si deve andare a trattare di qualcosa con qualcuno, ripeto. Dopodiché con Gheddafi, con il quale credo che non si possa evitare a oggi il contatto, ci si deve porre il problema se andare a ricercarlo, come si suol dire, col piattino in mano oppure in una fase veramente di contatto, dialogo tra virgolette pari a pari, tenendo considerato che Gheddafi per esempio non l'ha mai eletto nessuno a essere dov'è. Che so, l'Italia è famosa nel mondo per la promozione dell'abolizione della pena di morte. Quando si è firmato il multimiliardario trattato 2 anni fa, neanche gli si è chiesto, in ginocchio o meno, di sospendere l'esecuzione. Ma che differenza avrebbe fatto, senatore? Cioè, io capisco, formale nel chiederlo, ma secondo lei avremmo sortito un effetto? Cioè, nel senso, il concetto è o sottoponiamo questo accordo al fatto che abolisci la pena di morte, Gheddafi, se no non firmiamo nulla, e allora io posso capire, ma se no dirlo e ricordarlo, e poi la pena di morte rimane, insomma. A parte che se uno neanche ci prova non saprà mai come è andato a finire, dopodiché non si capisce perché a 60 anni di distanza da fatti che non necessariamente sono imputabili al nostro governo repubblicano si debba andare a recuperare quanto fatto da Mussolini o dal Regno regalando 5 miliardi in 20 anni a un regime dittatoriale che molto difficilmente li utilizzerà anche per i suoi propri cittadini, che sono i grandi dimenticati tutte le volte che si parla di Libia. Allora, no, ma questa, la sua posizione è molto chiara, voglio sottoporla subito a Carlo Panella, che saluto. Buongiorno Panella, giornalista. Buongiorno. Di Mediaset, collaboratore del Foglio, tra l'altro anche autore di quella Iatollato Omici. Magari si può estendere il discorso, perché Panella, uno può dire, se trattare con Gheddafi, perché non trattare allora con quelli che lei definisce Ayatollah atomici, farà dire l'Iran, perché insomma questo problema si pone con tutti quei paesi appunto in cui c'è un ideale di democrazia diverso dal nostro. Partiamo però da Gheddafi, perché dobbiamo andare nella tenda di Gheddafi e dargli dei soldi come abbiamo fatto un anno fa? Tanti soldi. Perché non bisogna essere degli estremisti ideologici come il simpaticissimo senatore Perduca, a cui ricordo che quando Emma Bonino era ministro del commercio estero, andando in Cina, non sollevò minimamente il problema dei temi umani con la Cina, perché il problema è quello che dovete spiegarmela, signora. Bush aveva giustamente inserito la Libia di Gheddafi nel 2001 tra i rogue state, tra gli stati canaglia, questo è il problema. La strategia di Bush, che non era soltanto la strategia militare, dopo il l'abbattimento del regime di Saddam Hussein, si dispiegò nel Mediterraneo e con la collaborazione dell'Italia, quando fu scoperta una nave piena di armi di distruzione di massa, fu posto a Gheddafi il problema: o ti invadiamo o cambi la rotta. Gheddafi ha cambiato rotta per quanto riguarda la sua caratteristica pessima di essere uno degli ispiratori del terrorismo internazionale, ricordiamo l'attentato di Lockerbie e via dicendo. Dopodiché, insomma, Gheddafi è un dittatore, un feroce dittatore, che non ha peraltro nel paese, perché questo è l'elemento che rende assolutamente ideologica la posizione dell'ottimo Perduca, non ha nel paese la minima opposizione né a livello di massa né a livello di regime, e detiene una posizione strategica nel Mediterraneo, oltre ad essere stato l'anno scorso presidente di tutti i paesi dell'Africa, per cui è ovvio che bisogna trattare con Gheddafi senza fare ogni volta la lezioncina. Ed è altrettanto ovvio, qui Perduca mi fa veramente cadere dal cielo, che l'Italia sia un paese che deve rendere conto di quanto ha fatto nella storia. Esattamente cosa c'entra la Germania di Brandt, che era un antifascista, con Israele? Ma la Germania di Brandt ha assunto su di sé le colpe del suo passato nazista. L'Italia ha avuto in Libia un atteggiamento sia durante il regno nel 1911 che sotto il fascismo molto simile a quello delle peggiori potenze coloniali. Quindi dobbiamo... che ripaghi al popolo libico. Ma come, con la famosa autostrada, con i famosi Israele, cioè, quando un popolo riconosce finalmente, io mi allibisco di fronte a questa posizione dei radicali, l'Italia, sia quella democratica giolittiana che quella fascista, si è comportata con dei massacri immondi in Libia. È ovvio che un governo repubblicano deve fare onore, insomma, al passato del proprio paese, della propria nazione, e deve farlo in un unico modo possibile, come fanno tutti i paesi civili, risarcendo i soldi andando a finire ad un regime che è quello dittatoriale. Pazienza. Come pazienza? Lei dice... Pazienza, perché non sono soldi destinati a costruire, a comprare carri armati o missili, sono soldi destinati a fare delle autostrade che sono indispensabili per lo sviluppo della costa sud del Mediterraneo. No, interessante questo. Prima di andare al nostro terzo ospite, senatore Perduca, insomma, quando dice Carlo Pannella, quando Emma Bonino era ministro del commercio estero, andava in Cina, lei non aveva sollevato... Evidentemente, perché Emma Bonino ha detto... Visto, considerato che stiamo parlando di Cina e non di Libia, sì. Così voglio dire, insomma, visto che si fanno gli esperti di geopolitica e anche si fa un po' l'economia della storia patria, oltre che delle cose fatte da altri governi che non si sostenevano, direi che la Bonino e Prodi andarono a sostenere la posizione dell'Unione Europea nei confronti della Cina in materia di diritti umani, andarono e la dissero, e ci sono anche resoconti di stampa nazionale e internazionale che questo sottolinearono. Poi magari il Foglio se ne è dimenticato, o anche Canale 5, ma questo è un altro paio di maniche. Il problema è che noi andiamo a dare i soldi a chi tratta i libici oggi come furono trattati dai fascisti del Regno d'Italia allora. Ma che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Senatore Perduca, io capisco che forse è molto realpolitik, realismo politico. Che si deve fare, se no? Cioè, che facciamo? Invadiamo la Libia? Rompiamo le relazioni diplomatiche con la Libia? Perché l'altra opzione deve essere sempre quella di... Pannella poco fa ha detto un'altra bugia, cioè che non esiste la opposizione in Libia. Ebbene, in Giordania per anni c'è stato il leader della opposizione, chiaramente in esilio, in Libia, perché la Libia, come la Corea del Nord, pare che non produca o non consenta nessun tipo di opposizione. Noi ci dobbiamo fare carico sicuramente del problema che dicevo all'inizio, cioè che l'Italia rispetta i diritti umani nel mondo e, se possibile, proprio perché è membro dell'Unione Europea, aiuta tutti coloro i quali si oppongono in maniera consone al diritto internazionale, quindi non necessariamente con le armi ma con la non violenza, a far proprio che cosa? I nostri stessi valori. Libertà, Stato di diritto e democrazia. Allora, io intanto voglio salutare, ci sta ascoltando l'onorevole ma anche sindaco di Mazara del Vallo, Niccolò Cristaldi. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, arrivano questa sera, credo, sono attesi questa sera i tre pescherecci. Sì, sì. tre pescherecci. Sì, sono attesi per questa sera, che sono stati dissequestrati grazie anche, insomma, immagino all'intervento del Presidente del Consiglio. Allora, lei si pone questo problema del fatto trattare con Gheddafi sì o no, o dal suo punto di vista, più da sindaco che da onorevole, è a dire: noi avevamo tre pescherecci sequestrati da Gheddafi, il Presidente del Consiglio è andato lì e ora ritornano. Per noi il problema è risolto così e ci interessa questo. Ancora il problema non è risolto, perché si è risolto questo piccolo incidente, ma rimane in piedi il grande contenzioso della gestione del Mediterraneo, delle acque del Mediterraneo. Noi siamo convinti che la politica del dialogo e del confronto non è mai una politica sbagliata. Abbiamo sempre necessità di confrontarci con gli altri, qualunque sia la posizione occupata dagli altri, anche sul piano della democrazia. Anzi, siamo convinti che il dialogo aiuta la crescita della democrazia in quei paesi dove questo non c'è. Con i carri armati non si può esportare la democrazia. Chi lo ha fatto ha sbagliato in passato, chi pensa di andare per questa strada non raggiunge risultati. Se guardate altri paesi, ad esempio la Tunisia, che ha fatto del dialogo una terra molto fertile, è sicuramente più avanzata la Tunisia rispetto ad altri stati. Sì, ma caro sindaco, qua qualcuno dice che il dialogo lo si fa quando si è in due, cioè se dall'altra parte c'è, che ne so, una persona che al dialogo non che capisce solo un certo tipo di dialogo, magari il dialogo del denaro. No, bisogna anche comprendere la reale situazione di quegli stati, bisogna conoscerli, sapere che tipo di popolazione c'è, che tipo di economia, che tipo di cultura. Non si può pretendere tutto ad un tratto che ci sia una logica occidentale ovunque nel mondo. L'Africa è un paese che ha mille problemi, ma anche mille tradizioni, mille culture diverse. Noi dobbiamo renderci conto che quei soggetti non la pensano come noi, non vengono dagli stessi libri nostri, dalla nostra stessa cultura, hanno una loro logica e una forma di rispettare la loro logica può essere utile anche a noi. Poi c'è il grande problema, mi permetto di dirlo: l'Italia deve decidere che cosa fare del Mediterraneo, l'Italia deve decidere come politica estera quale ruolo deve avere anche dentro l'Unione Europea. Il nostro continente è un continente vecchio che rischia di essere schiacciato tra gli Stati Uniti e la Cina e quel che succede da quelle parti. Il futuro dell'Europa è nel Mediterraneo, nella sua capacità di dialogare con quei paesi che si affacciano nel Mediterraneo. Se allora l'Italia accetta di fare l'anello di collegamento tra quei paesi e l'Europa, avrà un ruolo importantissimo in politica estera, così come ha avuto tanti decenni fa. Questo non lo si vuole fare, naturalmente si trova di fronte a situazioni che poi si portano anche... Sì, lei dice il ruolo centrale del Mediterraneo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Gli ascoltatori si dividono a metà, trattare o no con Gheddafi, siamo al 50% più o meno. Giovanni da Potenza, buongiorno. Sì, pronto? Dica, Giovanni. Da Cosenza, non da Potenza. Cosenza, dica. Ok, io volevo semplicemente dire che trattare con Gheddafi sta pure bene, anche se a mio parere sono tutta una serie di ricatti quelli che ci sta facendo, per cui dobbiamo fare ogni volta i ricatti che fa Gheddafi, vi sequestra i pescherecci, ci chiede il risarcimento dei danni. Vabbè, secondo me sono solo e semplicemente dei ricatti. Però dico, nel momento in cui si cede ai ricatti, si tratta con Gheddafi, ma vogliamo avere una voce forte verso Gheddafi? Lui ha bloccato il traffico degli immigrati, sta bene, però era un ricatto anche quello, ci faceva venire gli immigrati e ci metteva in una situazione di ricatto, o mi sbaglio? Sì, ho capito, ma lei guarda il risultato risolto, perché ci sono sempre due facce da guardare la medaglia, il risultato che adesso gli sbarchi a Lampedusa non ce ne sono più, e questo, caro Giovanni, è un dato di fatto, oppure dobbiamo dire che cosa abbiamo perso per ottenere questo risultato? Non so, giro la domanda a Carlo Panella, il senatore Perduca. Panella, dobbiamo vedere il fatto che non ci sono più sbarchi a Lampedusa e quindi va bene così, oppure che cosa ci è costato questo, non solo in termini di soldi? Ma non ci è costato assolutamente nulla. Io mi ricordo che le invasioni dei boat people, delle navi che arrivavano da Durazzo a Bari e a Brindisi dall'Albania negli anni 90, e rispondevano alla stessa logica, erano dei ricatti. quelli dei pescherecci no, perché i nostri pescherecci vanno dentro le acque territoriali della Libia e ahimè libici e tunisini hanno tutte le ragioni al mondo di arrestarli, quindi dopo dobbiamo andarli a trattare, subire il ricatto, ma il ricatto siamo noi che lo facciamo perché gli rubiamo il pesce. Detto questo, insomma, il problema è molto semplice e rispiegarlo al senatore Perduca, che continua, come spesso fanno i radicali di questo periodo, a confondere delle posizioni di parte, di un partito, il suo, che riconosce anche questo gentiluomo che non conta nulla, che sta in Giordania, che è l'oppositore libico, dalle posizioni di uno Stato, che sono due cose molto diverse, che devono rispondere ad un sistema di relazioni che c'è nel Mediterraneo e soprattutto che devono rispondere nel futuro a quello che succederà dell'Italia. E tanto è vero che lui non capisce perché noi non ci siamo fatti carico dei debiti dello Stato italiano, della nazione italiana, sono due cose diverse. E peraltro non serve a nulla la Bonino e Prodi, insomma, ci furono delle polemiche in Italia, me ne ricordo benissimo, perché dissero sì, difendiamo i diritti umani, dopodiché firmarono tutti i trattati con la Cina senza fare pesare minimamente un ricatto ai cinesi, se non fate questo non vi diamo questo contratto, e fecero bene, perché non è gli stati devono fare delle politiche assolutamente, come dire, riformiste, lente, far maturare dei processi. Pragmatico. Quello che l'Italia ha fatto con Gheddafi, il governo Berlusconi della scorsa, di due legislature fa, è storico, perché ha favorito un processo di evoluzione da rogue state, da stato canaglia che aveva armi di distruzione di massa, sino alla dichiarazione di abbandono delle armi di distruzione di massa, di abbandono del rapporto con il terrorismo che per 40 anni Gheddafi aveva avuto, e di accompagnamento lento di quella che è una terribile dittatura. E non mi dica che oggi Gheddafi fa quello che abbiamo fatto noi ai cittadini libici, perché è una boiata pazzesca, il senatore Perduca, verso un cammino di dialogo nel Mediterraneo. Che faremo degli errori, ma si tratta semplicemente di accompagnare i popoli e i governi verso una normalizzazione e possibilmente una democrazia. È evidente che non ci sarà la democrazia in Libia fin quando Gheddafi non cadrà, ma non c'è nessuno che lo sta facendo cadere, quindi dobbiamo accompagnare, non vendendo carri armati, ma vendendo autostrade o regalando autostrade, questo popolo libico e questo governo libico e questo pazzerello di Gheddafi verso la normalità, con calma, tranquillità, senza mai derogare dei principi, ma anche senza fare gli ideologhi che fanno le declamazioni. Ma a quale governo del mondo noi chiediamo di abbandonare la pena di morte? Allora rompiamo le relazioni, diciamo agli Stati Uniti che se non tolgono la pena di morte noi non abbiamo più relazioni con loro, ma via. Luigi da Roma, buongiorno, poi voglio tornare dal senatore Perduca. Luigi. Sì, buongiorno. Dica. Allora, io faccio una premessa, Gheddafi non mi è simpatico, non mi era simpatico nel passato, non mi è simpatico a oggi, però come cittadino, come italiano, io penso che se per l'interesse dell'Italia bisogna trattare con Gheddafi, non solo è necessario, ma è doveroso. Qual è l'interesse per l'Italia, secondo lei? Che cosa? Qual è l'interesse per cui vale la pena trattare? Allora, l'energia, il petrolio? Il primo interesse è quello di bloccare l'immigrazione selvaggia attraverso i barconi, sì, che partono dalla Libia. Che ricordiamo sempre è una percentuale molto, molto minoritaria rispetto all'immigrazione illegale che arriva in Italia. Arrivano con gli aerei, gli immigrati illegali, non però con i non con è le un diciamo uno spettacolo. Diciamo, insomma, bello vedere questa gente che arriva in una certa maniera e noi dobbiamo accoglierla, spendere dei soldi per loro, e quindi a un certo punto è interesse dell'Italia bloccare questo flusso. Il secondo aspetto è l'interesse economico. A me sembra che la Libia abbia aperto una corsia preferenziale nei confronti dell'industria italiana. Si fermi qui, senatore, ho un minuto, senatore Perduca. Il pragmatismo che diceva Panella e anche Luigi da Roma, cioè se c'è interesse economico è anche doveroso e necessario per gli stati trattare anche con Gheddafi. Tutto condito da relativismo culturale, mi pare di capire, anche tra l'altro. No, io invito a organizzare una trasmissione con Marco Pannella, che sono anni che sta compilando informazioni su come è stato fatto rientrare Gheddafi nella comunità internazionale, partendo magari dall'ultimo episodio, cioè quello di boicottare l'esilio di Saddam Hussein per evitare la guerra in Iraq. Tanto così perché, ripeto, voi, lì mi pare di capire, non l'ospite, state leggendo esclusivamente la storia di chi vince, di chi magari avrebbe trattato anche con Hitler e Mussolini, perché dice tanto che problema c'è, sicuramente gli italiani non saranno troppo meglio, però non ci creano problemi di instabilità nel Mediterraneo. No, guardi, io con Hitler non avrei trattato, ma voi... No, lei no, appunto, però prima è stato evocato il fatto che questo c'è, con lui bisogna avere a che fare, addirittura è brutto vedere sbarcare gli immigrati come sbarcavano gli italiani sulle coste, che so, dell'Atlantico 150 anni fa, e quindi in virtù di questo orrore edonistico bisogna lasciare le cose come stanno. Va bene. Noi ci stiamo mettendo nelle condizioni, così facendo, di non soltanto porre minimamente il problema della qualità del regime di Gheddafi, ma di non poterci mai sganciare da Gheddafi in niente, perché diceva giustamente il primo al radioascoltatore che ha chiamato che ci stiamo sottoponendo a una serie di ricatti uno dietro l'altro, senza fare neanche gli interessi degli italiani, perché Gheddafi ha espulso migliaia di italiani negli anni 70 e centinaia di imprenditori negli anni 80. L'Italia avrà delle responsabilità anche nei confronti di questi cittadini? Sì, e da questo punto di vista anche degli imprenditori, devo dire, non ha mai assunto una vera responsabilità. Grazie a tutti, mi devo fermare, do la linea a Oscar Giannino, in redazione come al solito Sara Spreafico e Peter Bescape in regia. Se volete, 18:35 La Zanzara, ci sono anche oggi, e poi se no domattina. A domani.